Tino, tica, tite, tina. Tino, tica, tite, tina. Tino, tica, tite, tina. Tino, tica, tite, tina. Tino, tica, tite, tina. Tino, tica, tite, tina. Tino, tica, tite, tina. Tino, tica, tite, tina. Tino, tica, tite, tina. Tino, tica, tite, tina. Tino, tica, tite, tina. Tino, tica, tite, tina. Tino, tica, tite, tina. Tino, tica, tite, tina. San, Tino, tica, tite, sin, tina. Tino, tica, tite, san, tina. Tino, tica, tite, tina. san, Tino, tica, tite, tina. Tino, tica, san, bip, sin, san, bip, bip, san, bip, bip. Bip, bip, bip. Ron, ron, ron, ron, ron, ron, ron, sun, ron, sun, ron, cara, sun, ron, sun, sun, ron. Sum ron cara ron sum ron sum sum ron cara ron sum ron sum ron cara sum ron sum ron cara ron sum ron sum sum cara sum sum sum cara Tino, tica, tite, tina. Tino, tica, tite, tina. Tino, tica, tite, tina. Tino, tica, tite, tina. Tino, tica, tite, tina.